lingue, quei sorrisi un po' pubblicitari, ed i carrelli come astronavi, video etichette in formato puntuavi. Il cibo è tutto, sai, bello, invitante, ma non ho voglia di mangiare niente. Se leggi in fondo la riga inquietante, dietro l'involucro un po' provocante, scopri che quasi ogni ingrediente è tossico come la rage e il mordente. Le zucche, le mele biodegenerate ti vogliono far fuori col porta posate, la cioccolata un sorriso inquietante, sarebbe più utile come abbronzante. Per farla è morto un buon numero d'uno di bambinetti dell'ultimo mondo, e per riciclare cadaveri pari indossando un fatto stuzzicadenti. Il cibo è tutto bello, ma non ho voglia di mangiare niente. Se leggi in fondo la riga inquietante, dietro l'involucro un po' provocante, scopri che quasi ogni ingrediente è tossico come la rage e il mordente. Scopri che quasi ogni ingrediente è tossico come